Non ricordo dove ho messo, dove avrò messo le chiavi, eppure ce l'avevo qui, ora tra le mie mani. Sarà la vecchiaia che mi rincoglionisce, ma a me mi sembra proprio che ho la memoria di un pesce. Non ricordo proprio nulla di cosa ho mangiato, forse era un'aragosta, forse un peccato di gola di quelli che fanno ricordare gli antipasti, a forza di dimenticare la mia memoria sta andando a pezzi. Per non dimenticare scrivo sulla lavagna il mio nome e lascio appunti sul comodino, il dentifricio lo incollo al lavandino. La spesa è sempre un rebus, una montagna da scalare. Quando ti manca la memoria è un po' come morire, ma di te ricordo tutto, chissà per quale ragione. Non mi dimentico né del tuo viso, né del tuo sguardo, né della tua passione. Forse hai scritto lì dove pochi sanno lasciare un segno, e la tua traccia supera il tempo di ogni mio intendimento. Se continua di questo passo mi dovrò far curare, ma chissà dove avrò messo l'indirizzo del dottore. Avevo un'idea geniale, ma è scappata come una lepre. Una cosa so di certo, non ho più dubbi, mi sono perso. Il portafoglio, le password, chissà dove sono finite tutte le mie entrate, tutte le mie uscite. Eppure qui prima c'era una porta che andava dritta dritta all'altro mondo, oppure era solo un abbaglio e portava dritta dritta all'inferno. Per non dimenticare scrivo sulla lavagna il mio nome e lascio appunti sul comodino, il dentifricio lo incollo al lavandino. La spesa è sempre un rebus, una montagna da scalare. Quando ti manca la memoria è un po' come morire, ma di te ricordo tutto, chissà per quale ragione. Non mi dimentico né del tuo viso, né del tuo sguardo, né della tua passione. Forse hai scritto lì dove pochi sanno lasciare un segno, e la tua traccia supera il tempo di ogni mio intendimento. Mi piacerebbe rincarnarmi nelle vesti di un elefante, così da essere sicuro di non dimenticare niente. Ma poi se mi dimentico e mi rincarno in un rinoceronte, allora è ancora peggio, allora meglio il niente. A forza di dimenticarmi non soffro più come un dannato, tutto mi passa sotto, sotto gli occhi, anche sotto al naso. Forse è solo un antidoto, un modo per evitare tutte le scorciatoie che ti allontanano dal cuore. Per non dimenticare scrivere